Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e vi anticipo, come già ha ricordato il nostro GR, che oggi il programma terminerà alle 18. Avremo infatti uno speciale dopo il GR delle 18 dedicato a quanto sta capitando drammaticamente in Algeria e quindi, come ricordava il nostro GR, almeno 35 ostaggi uccisi e anche 15 rapitori detenuti nell'istituto petrolifero di In Amenas in Algeria. Appunto 35 ostaggi stranieri morti e 15 sequestratori uccisi, tra cui uno dei leader di Al-Qaeda, Abu al-Bara, sono sempre le fonti che arrivano, per esempio in questo caso da Al Jazeera, fuggiti invece una trentina di ostaggi algerini e 15 stranieri. E poi via libera dell'Unione Europea alla missione di addestramento dell'esercito del Mali, al quale parteciperanno anche militari italiane. È comunque caos sul numero degli ostaggi uccisi, tra l'altro, e su quelli che restano ancora vivi nelle mani dei rapitori. La sicurezza algerina riferisce che altri 25 ostaggi stranieri sono riusciti a fuggire e sono vivi. In precedenza invece erano circa stati definiti come 34 i prigionieri uccisi, poi diventati 35. Una fonte locale poco fa ha detto alla Reuters che 6 ostaggi stranieri e 8 sequestratori sono stati uccisi quando le forze di sicurezza algerine hanno aperto il fuoco su un veicolo usato dai terroristi nel campo di gas, appunto, di In Amenas. Per quello che riguarda i temi più strettamente economici, anche se non sono prioritari, vi è già stato un lieve calo dei flussi di gas dall'Algeria per l'Italia, una lieve flessione sul gasdotto Transmed, però questa mattina stiamo cercando di capire se la flessione sia aumentata quanto a esportazione di gas algerino verso l'Italia. La SNAM ha chiarito, i volumi sono normali, 70-75 milioni di metri cubi al giorno, adesso siamo intorno ai 60-65 milioni, però ripeto, di questa mattina, con un calo già di 10 milioni di metri cubi. Ricordo anche che l'Algeria fornisce, quindi dall'Algeria proviene circa un terzo di tutto il gas che viene utilizzato in Italia, un altro terzo arriva dalla Russia e poi il restante 40% da Libia e Mare del Nord. Di questo appunto si occuperà il nostro speciale dalle 18 in poi. Noi invece torneremo sui temi dell'export, perché avevo promesso l'intervista al presidente dell'ICE alla luce dei buoni dati di ieri, e torneremo anche su un tema che ieri avevamo annunciato ma non siamo riusciti a trattare per motivi di spazio: il tentativo faticoso, secondo alcuni anche debole, dell'Unione Europea di porre un limite alle agenzie di rating, al loro peso. Sono le agenzie che danno un voto ai paesi e ai debiti dei paesi, oltre che ai debiti dei privati. C'è un tentativo, visto che l'accusa nel passato è stato che queste agenzie si muoverebbero in conflitto di interessi o comunque si muoverebbero creando imbarazzo e difficoltà per i governi e alimentando anche in alcuni casi la speculazione, c'è un tentativo di regolamentare il ruolo, il numero di voti che possono dare in un anno, quanto preavviso devono dare i governi in modo da poter predisporre anche per i singoli governi una risposta, in modo che non piombino a ciel sereno, magari però con il sospetto che qualcuno conosca questi voti prima degli altri, quindi possa speculare su questo. Sappiamo che le agenzie di rating, in particolar modo Moody's e Standard & Poor's, sono partecipate da fondi americani, fondi che investono, e quindi lì l'accusa è fanno il gioco dell'America oppure comunque sono in un conflitto di interessi. Anche di questo parleremo e poi come sempre gli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, a partire da quello che sta capitando con la vicenda Boeing. Ieri ce ne siamo occupati a lungo, siamo stati facili profeti, devo dire, al di là di quello che diceva il direttore della rivista Trina Difesa, che tendeva a minimizzare ieri l'impatto di quanto era successo in Giappone. Il settimo caso di un Boeing 787 Dreamliner, il nuovo, il gioiello, quello costruito in carbonio, leggerissimo. Il settimo caso di un problema ha portato le linee aeree giapponesi ieri a tenere a terra tutti gli aerei, e mi riferisco quindi a Japan Airlines, ma non solo. Si era verificato del fumo in cabina, che non è una cosa proprio leggerissima. Il motivo sembra essere appunto il circuito elettrico. In realtà oggi le cose sono anche peggiorate, perché tutti i Dreamliner 787 della Boeing devono restare a terra fino a quando non saranno stati completati gli accertamenti tecnici sui numerosi problemi che li hanno coinvolti nelle ultime settimane. Questo lo ha deciso non il Giappone, che l'ha già deciso ieri appunto, ma l'autorità sulla sicurezza aerea degli Stati Uniti, con un'ordinanza di urgenza che automaticamente si è estesa a tutti gli altri paesi. E infatti l'ha attuata anche l'Europa, l'ente europeo, l'ha immediatamente attuata. In Europa volavano solo due esemplari di Dreamliner, sono quelli della compagnia aerea polacca LOT, che li ha immediatamente bloccati, e la LOT però vorrebbe rimettere in discussione tutti gli ordini sulla Boeing. Ecco perché il titolo perde ancora negli Stati Uniti non tantissimo, devo dire, tra l'1,5% e il 2% in questo momento. E questo fa il paio invece con una buona notizia per il concorrente di Boeing, quindi Airbus, che ha chiuso il 2012 con una grande annata sia in termini di consegne che di ordini, entrambi superiori alle attese: 914 ordini lordi, sono 833 al netto delle cancellazioni, e 588 consegne, il 10% in più rispetto al 2011. 349-238-6666 per i vostri sms e poi anche Facebook per partecipare al programma. Rapidamente le notizie in breve. Partiamo dalla borsa. Bene Milano oggi, con una crescita più che doppia rispetto alle altre borse europee: più 1,20% Milano, più 0,70% Parigi, più 0,30% Francoforte, più 0,40% Londra. L'America più 0,40%, euro su dollaro a 1,3358. Tra i titoli di negativo c'è poco oggi tra quelli a maggiore capitalizzazione: Ferragamo perde lo 0,92, Diasorin lo 0,60, Tenaris pure, Enel meno 0,25. Fortissima invece oggi Mediaset, più 8,70%, vicina ai 2 euro per azione. Da quando 12 dicembre Berlusconi ha annunciato il suo impegno in prima persona nella campagna elettorale, il titolo ha preso quasi il 50% del suo valore. Era comunque ai minimi. Fiat molto bene, più 5,60, anche di questo parleremo. ST Microelectronics più 3,30, UbiBanca più 3, Mediobanca più 2,70, Mediolanum più 2,30, Pirelli più 2,20, come Toz. Il 2% lo guadagna Finmeccanica e Unicredit guadagna l'1,80%. Restiamo all'economia internazionale, perché la Cina, secondo il Wall Street Journal, nonostante il buon anno, perché ha chiuso il 2012 con un PIL in crescita più delle attese, starebbe perdendo il proprio ruolo di fabbrica del mondo. I produttori si spostano invece in altri paesi ancora più convenienti rispetto alla Cina, per esempio il sud-est asiatico, in primo luogo Vietnam, ma anche Cambogia. Il flusso degli investimenti esteri in Cina infatti è calato nel 2012 del 3,7%, è la prima volta. Sono comunque tantissimi gli investimenti esteri in Cina, pensate, 111 miliardi di dollari, però è il primo calo dal 2009. E quali sono questi paesi? Dicevo Vietnam e Cambogia, ma ce ne sono due che fanno la parte del leone: Thailandia ed Indonesia. L'Indonesia sta uscendo come l'economia più emergente, diciamo, tra le economie emergenti. Gli investimenti esteri in Thailandia sono aumentati del 63% l'anno scorso e quelli in Indonesia del 27%. Buono il dato, siamo all'America, buono il dato sulle richieste di sussidi alla disoccupazione: sono scese ai minimi da 5 anni a questa parte. e vi è stato anche un balzo nella costruzione di nuove case. A dicembre ne sono state costruite come non mai dal 2008, e questo appunto influisce positivamente sia sul Nasdaq che sullo Standard & Poor's 500 che sul Dow Jones. È un segnale che l'America, per quanto abbia ancora molte fragilità sul fronte del deficit, del debito e dell'accordo che Obama deve fare con il Congresso, però le politiche molto accomodanti della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, stanno funzionando. Cioè, la Banca Centrale Americana ha stampato molta moneta, e comunque l'America vede tornare a crescere l'occupazione e anche la produzione di nuove case. C'è chi vuole sapere se abbiamo scoperto oggi il conflitto di interesse delle agenzie di rating. No, abbia pazienza, ne parliamo da anni, da almeno 2 anni, anche un po' di più. E comunque faremo riascoltare anche quel bellissimo passaggio di Inside Job proprio dedicato alle agenzie di rating, a come si sono mosse prima dello scoppio della bolla. Inside Job è questo film che usiamo ogni tanto, premiato come miglior documentario, ha vinto l'Oscar nel 2011. E c'è un'accusa molto esplicita che le agenzie di rating, insomma, abbiano pompato, abbiano aiutato la credibilità di alcuni titoli che poi si sono rivelati tossici, e poi, chiamate a rispondere, hanno detto: beh, noi esprimevamo solo opinioni. Sì, ma sono opinioni spesso vincolanti, per cui vabbè, ne parliamo dopo. Il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble, parlando al Bundestag, Schäuble è uno dei falchi, considerato un falco, ha detto: siamo sulla strada giusta, lo spread tra i titoli di Stato si sta riducendo e la fiducia sta ritornando, però no a condividere il debito, quindi all'emissione di Eurobond, di un po' di debito di carattere europeo, peggiorerebbe la crisi, non la risolverebbe. Schäuble ha anche messo in guardia verso chi ancora oggi ritiene che le banche centrali dovrebbero stampare moneta come in passato. Questo porta inflazione, ha detto, e l'inflazione è la più grande ingiustizia sociale. Faccio notare a Schäuble, molto modestamente, che anche la disoccupazione è una grande ingiustizia sociale, e noi stiamo beccando dei record di disoccupazione in Europa perché l'Europa è in recessione. Faccio notare che l'America sta stampando moneta da 4 anni, sì, ha un'inflazione alta, ma sta creando anche posti di lavoro, e il dato l'abbiamo appena letto. Faccio notare a Schäuble che nella vita l'importante è la misura. Nessuno dice che tu debba riempire l'Europa di inflazione, ma avere record di disoccupazione perché i tedeschi sono terrorizzati dall'inflazione perché ricordano Weimar e Hitler, sbagliando perché non conoscono la storia. Hitler si affermò perché la disoccupazione in Germania era record, non perché l'inflazione era record. L'inflazione stava rientrando prima della crisi del 29. Uno va a leggersi i libri di storia e capisce che tutto il resto è leggenda. Il Partito Nazionale Socialista nel 28 ha preso lo 0,8, l'1% dei voti. Dopo le politiche restrittive per mantenere bassa l'inflazione in Germania, della Repubblica di Weimar, alle elezioni successive prese il 18% di voti, adesso vado a memoria, ma comunque il balzo lo fece grazie ai milioni di disoccupati che si erano creati in quel periodo, non all'inflazione. Eppure, evidentemente in Germania quello è ancora un mantra. Ripeto, l'inflazione al 2,4% è poca roba, potremmo tollerare qualche punto in più senza arrivare a livelli inaccettabili, e però liberare un po' di risorse, stampare un po' di moneta. Vai, andiamo avanti con il resto. La Banca Centrale Europea oggi nel suo bollettino di gennaio dice che la crescita nell'area euro è debole e vi sarà una graduale ripresa nel 2013, molto graduale da quello che vediamo con le previsioni, visto che noi chiuderemo ancora in recessione, -0,7, -0,6, -1%, non si sa ancora, e che la Germania farà più 0,4, cioè stagnazione comunque. Sempre la Banca Centrale Europea, servono ulteriori passi avanti per risanare i conti, le riforme strutturali servono per una maggiore competitività e le banche sono un fattore cruciale per il credito all'economia. E poi un passaggio che riguarda l'Italia e dice: la cresciuta incertezza politica in Italia è all'origine di alcune fughe di capitali con l'obiettivo di ricercare investimenti più sicuri verso i titoli emessi da paesi con voto di AAA. Il presidente Confindustria Squinzi oggi, parlando in merito al convegno dedicato al Mezzogiorno, ha detto che i prossimi mesi sul fronte della crisi saranno i più duri, quelli che segneranno il punto più basso dell'economia del nostro paese, in particolare del Mezzogiorno. Ci aspetta un anno difficile, ma, ha aggiunto Squinzi, resto ottimista, convinto che l'Italia abbia risorse e capacità per venirne fuori. E poi, relativamente al Mezzogiorno, Squinzi ha detto: è forse l'area del paese dove più forte si sono avvertiti gli effetti della crisi. Ci sono 16.000 imprese al sud e 330.000 lavoratori in meno, quindi hanno chiuso 16.000 imprese e hanno perso lavoro 330.000 lavoratori. C'è un rischio di desertificazione industriale del sud nel caso in cui l'Ilva, un caso di cui l'Ilva e altri sono una triste testimonianza. Sergio Marchionne, numero uno della Fiat, è intervenuto anche oggi a un convegno organizzato da Quattro Ruote, il Quattro Ruote Day, e ha detto sostanzialmente: il mercato europeo sarà in linea con il 2012, forse nel secondo semestre avremo una lieve ripresa, non chiuderemo fabbriche in Europa, tutta questa cacciara, e poi gli unici a non chiudere certamente siamo noi, così ha risposto a chi ha chiesto se la Fiat ha intenzione di chiudere altri impianti. Appena pronti annunceremo altri investimenti, presenteremo 17 modelli e 7 aggiornamenti entro il 2016, in 3-4 anni arriveremo al pieno impiego dei lavoratori. Abbiamo programmato di portare in produzione negli impianti italiani 17 nuovi modelli e 7 aggiornamenti di prodotto da qui al 2016. E questo ci permetterà di ottenere già nei prossimi 24 mesi un significativo aumento dell'attività produttiva fino ad arrivare nel giro di 3 o 4 anni ad un impiego pieno di tutti i nostri lavoratori. E ci permetterà inoltre di risolvere il nostro problema della sovracapacità produttiva nel mercato generalista e di raggiungere finalmente il pareggio anche in Italia ed in Europa. E poi sempre Marchionne dice: sono oscene le dichiarazioni dei politici su Melfi, le ho trovate oscene. A Melfi stiamo realizzando una nuova linea per ripartire. E poi ha detto che con il Giappone rischia un accordo squilibrato, ma è intervenuto anche sul tema delle elezioni politiche con una frase che domani farà discutere. Ha detto: la Fiat è da sempre filo governativa. E fra poco partiremo con il primo approfondimento e devo dare ancora due notizie e qualche risposta a chi scrive su Facebook e al 349-238-6666. Dunque, sull'inflazione c'è chi dice: no, guardi, l'inflazione e la disoccupazione sono la stessa cosa, perché quando i prezzi crescono comunque uno ha il potere d'acquisto che cala. Beh, un po' diverso, un po' diverso, nel senso che crescono con l'inflazione, per carità, i prezzi, ma tra il non avere lavoro o avere un lavoro per quanto un potere d'acquisto possa erodere è un po' diverso. E poi con l'inflazione uno può scegliere che cosa comprare, quando il lavoro non ce l'hai non scegli nulla. Non sono d'accordo, e anche le prospettive sul futuro cambiano molto. Faccio notare che nessuno vuole l'inflazione che l'Italia ha avuto negli anni 80, quando viaggiava al 18, al 20%, ma stiamo scherzando. ma qui abbiamo un'inflazione in Europa, siamo i più virtuosi del mondo per far contenti i tedeschi, l'inflazione al 2,5%, al 3%, che tanto quando la gente non spende, l'inflazione può essere anche al 4%, al 5%, ma se tu non spendi, non spendi, abbi pazienza. Se hai qualche prospettiva in più e uno stipendio, magari spendi un po' di meno, ma qualcosa spendi, anche se cresce del 4% in un anno. Non capisco perché Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti, che non mi sembrano dei paesi pirla, abbiate pazienza, si possono permettere l'inflazione perché stampano moneta, aiutano l'economia, noi dobbiamo fare i più virtuosi del mondo, intanto stiamo affossando con la disoccupazione giovanile soprattutto record. Non mi sembra una gran scelta, cioè ti mantieni magro ma intanto muori, boh, magari qualche chilo in più lo puoi mettere su, non sarà così salutare, ma almeno riesci a carburare, se vogliamo usare questo esempio. Comunque, parliamo dell'export, ma anche di una notizia che riguarda la crisi. 349-238-6666 per gli sms e poi Facebook. Lei dice le cose, sembra un piccolo Berlusconi, ma guardi, non me ne frega nulla se le dice Berlusconi, Monti o Bersani, l'abbiamo sempre detto queste cose sulla Germania, va bene il rigore ma non solo rigore, diventa rigor mortis, lo ripeterò fino alla fine. Allora, mentre la crisi morde anche il Cirque du Soleil, via 400 dipendenti, è il circo nato in Canada, è diventato famoso a livello internazionale, ha licenziato 400 dipendenti su 5.000 totali. Ieri è arrivata una buona notizia che riguardava il nostro export, che è cresciuto nel 2012 come quello tedesco, a dimostrazione, lo dico ancora una volta, che le imprese italiane, nonostante non abbiano gli aiuti che hanno quelle tedesche, non hanno neanche un paese efficiente e che lavora come un sistema come quello tedesco, riescono a ottenere gli stessi incrementi delle imprese tedesche, quindi sono doppiamente brave. 10 miliardi saldo positivo. E siamo in collegamento, già ieri abbiamo commentato a lungo i dati, comunque col presidente dell'ICE, che ieri Mario Monti lì li ha presentati, l'Istituto per il Commercio con l'Estero, rinato, appunto ieri c'era il piano anche industriale, dovrebbe ridisegnare le strutture anche per avere una regia e un'azione più coordinata e aiutare le nostre imprese. Arriviamo alla borsa, il programma oggi termina alle 18, ma intanto dicevo commentiamo i buoni dati dell'export di ieri, ma soprattutto il ruolo che dovrebbe avere la nuova ICE per dare una mano agli imprenditori che già si sono comportati bene, benissimo, ma non possono sempre dovercela fare da soli. E buonasera Riccardo Monti, presidente del Neo ICE, Istituto per il Commercio con l'Estero. Buonasera a voi. Che non è assolutamente, non ha nessun legame di parentela con Mario Monti, anche perché saremmo in par condicio. Ovviamente no. Ovviamente no. Dunque, presidente, l'ICE era, per dirla con la Traviata, la croce delizia degli imprenditori italiani. Alcuni ricordavano il valore di vari direttori dell'ICE in varie sedi internazionali, parlo della vecchia ICE chiaramente, altri lamentavano invece la scarsa incisività, la poca presenza, il poco aiuto ricevuto, e questo l'abbiamo raccolto nel corso degli anni dagli imprenditori che vanno in questi mercati. Qual è il ruolo della nuova ICE, visto che oggi avete presentato il piano 2013-2015? Guardi, il ruolo della nuova ICE è di essere una moderna agenzia di promozione del trade, quindi un del soggetto commercio che rappresenta le aziende del sistema Italia in giro per il mondo, in coordinamento con la componente diplomatica, con la componente culturale, con le camere di commercio, e che è in grado di fare un lavoro di assistenza a 360 gradi per chi vuole esportare beni o servizi, ma anche per chi vuole insediarsi in quei paesi accompagnando l'insediamento, e anche per chi vuole valutare opportunità di investimento in Italia. Quindi la internazionalizzazione moderna è fatta non solo di export, ma anche di insediamento delle nostre aziende multinazionali, tascabili o meno, e della capacità di coinvolgere i nostri partner commerciali anche come investitori nel nostro paese. Questo è quello che la nuova agenzia sta facendo e farà sempre di più. Ecco, tra i problemi evidenziati nel passato, e immagino possono essere anche nel presente, c'era soprattutto l'assenza di un coordinamento, al di là delle singole iniziative. Cioè noi sappiamo che le regioni aiutano le imprese della regione, fanno missioni, a mio avviso, molto discutibili, perché molto care e spesso con poche ricadute all'estero. Poi c'è la Farnesina, che lei ricordava, l'attività dei consolati soprattutto. Poi c'è la SACE, la Siemens, e quindi l'assicurazione sui crediti in primo luogo. E poi c'è la LICE. Ora, da sempre viene invocata una cabina di regia un po' sul modello francese, cioè il fatto che tutte queste iniziative, per carità, possono anche esistere. A mio avviso regioni e province non dovrebbero andare all'estero da sole, soprattutto in mercati così grandi come Cina, India, Indonesia, Sudafrica, Brasile. Però il problema è che siano coordinate. C'è la nascita o l'intenzione di avere una vera cabina di regia, Presidente? Guarda, questa cabina di regia è stata costituita proprio nella stessa legge che istituisce l'agenzia ICE, quindi in realtà è un elemento, diciamo, costituente della nuova agenzia, un nuovo assetto complessivo del supporto all'internazionalizzazione. Quindi questo implica che abbiamo da un lato una cabina di regia che contiene tutti i ministeri che hanno una propensione all'estero, con in presidenza di questa cabina di regia, quindi con una leadership condivisa tra il Ministero degli Esteri e il Ministero dello Sviluppo Economico, ma con la presenza anche del Ministero del Turismo, il Ministero dell'Agricoltura, che ha una grande proiezione all'estero perché abbiamo tantissimo export nell'agroalimentare, e anche il Ministero delle Finanze. A questi si associano i soggetti economici, c'è l'ABI, c'è la Confindustria, c'è l'Union Camere, c'è l'Alleanza delle Cooperative, quindi in realtà tutto l'ecosistema istituzionale, tutto il sistema economico è presente in questa cabina di regia di cui l'agenzia fa da segretariato e che ci ha permesso di fare una serie di cose mai fatte prima. Quindi da un lato, per esempio abbiamo fatto una revisione radicale della nostra rete all'estero, chiudendo degli elementi di sovrapposizione, cercando di fare massa critica, quindi in alcuni punti magari c'è un ufficio ICE molto piccolo e lo chiudiamo e associamo le 2-3 persone rimaste presso il locale consolato, presso la Camera di Commercio. Stiamo facendo nuove aperture dove il sistema italiano non c'era, quindi noi abbiamo fatto per la prima volta uno sforzo di analisi di tutti i pezzi del sistema Italia nei vari paesi del mondo. Parliamo anche degli istituti di cultura, delle Camere di Commercio all'estero, delle Camere Miste Italo con un altro paese, anche degli uffici Enit, dove ci sono nei pochi paesi gli uffici Siemens e SACE, che quasi dovunque ormai sono collocati presso gli uffici dell'ICE. Quindi questo un grosso lavoro di coordinamento della rete estera, che poi permette anche di intercettare eventuali iniziative velleitarie che vengono dall'Italia, perché solo la rete all'estero ben coordinata è difficile che uno si avvii all'estero senza consultarla e ingaggiarla. Ecco, ma mi dica una cosa, avrete tra virgolette anche un potere di veto? Voglio dire, se la regione X dice io il prossimo mese vorrei andare nel Guangdong e c'è un'iniziativa invece fatta dai ministeri che lei citava, magari fra 3 mesi nel Guangdong, cioè, riuscirete a dire no, fermati, vieni con noi, blocca, che senso ha sprecare queste risorse? Oppure è una moral suasion? Cioè una... Guardi, devo dire che c'è una moral suasion molto forte, perché innanzitutto in questo lavoro ovviamente anche le regioni sono coinvolte, fanno parte della mia regia. Io personalmente ho incontrato la maggior parte presenti in regione e l'epoca del turismo promozionale è finito, quindi devo dire che al di là di aspetti formali di veto o non veto, ovviamente nessuno c'ha il veto, c'è da un lato una maggiore sensibilità degli enti locali a fare un lavoro coordinato all'estero, dall'altro minori risorse, mi faccia dire, da buttare. E infine un grosso lavoro di freno fatto dalle stesse aziende, perché nessuno più ha tempo e soldi da buttare in iniziative poco efficaci. Quindi sono le aziende, anche su iniziative locali, sono le aziende che dicono un momento, fammi capire, prima di avviarmi, come dice lei, a Guangdong, fammi capire se trovo dei compratori, se siamo organizzati bene, se abbiamo il tempo di fare i nostri incontri, eccetera, eccetera. Quindi devo dire che questo ciclo circo virtuoso si è ben attivato e iniziative velleitarie ne vediamo sempre di meno e spero dall'anno prossimo che siano completamente eliminate. Mi dica una cosa, che cosa si augura che faccia il prossimo governo, e che vuol dire che cosa manca in questo momento al nostro sistema? Tante cose, ma la principale, per avere un modello o francese o tedesco, che sono bravissimi nell'aiutare le loro imprese, in Germania è anche facile perché hanno tante grandi imprese, ma insomma... per aiutare le loro imprese all'estero nella penetrazione dei mercati, nella conoscenza, nell'educazione anche dei consumatori? Guardi, ai francesi invidio le grandi risorse in promozione che dedicano, perché tra l'area food e i voti industriali loro investono in promozione circa il triplo di noi. Ai tedeschi, dai tedeschi invece invidio un sistema molto forte di finanziamento all'export, quindi sia in termini di disponibilità, di garanzie molto poco costose per l'esportazione, sia in termini di disponibilità di finanziamento all'esportazione, che sono due temi diversi. Da un lato c'è la garanzia del credito all'export, che è quello che fa molto bene la nostra SACE, che deve però essere molto facilmente accessibile e costare meno possibile per l'azienda, ma poi dall'altro c'è anche il finanziamento vero e proprio al processo di esportazione, che è particolarmente rilevante quando si tratta di esportare un servizio come ad esempio i grandi progetti infrastrutturali. Cioè, e lì c'è la Siemens. Sì, no, diciamo la Siemens fa un ulteriore lavoro preziosissimo, che è il coinvestimento quando un'azienda italiana deve andare a installarsi all'estero e la Siemens può fornire l'equity fino al 49%. Quindi tutti questi strumenti li abbiamo messi in allineamento creando due grandi gambe, una grande gamba promozionale, quindi l'agenzia ICE e tutta la tessera, e una unica gamba di finanziamento alla internazionalizzazione, che all'interno di Cassa Depositi e Prestiti, che ha assorbito sia come capitale sia la SACE che la Siemens, e quindi adesso dentro Cassa Depositi e Prestiti abbiamo tutti gli strumenti di finanziamento all'internazionalizzazione, e io sono anche vicepresidente della Siemens proprio per cercare di far camminare quanto più possibile insieme queste due gambe che sono molto sinergiche. Bene, quindi la richiesta, diciamo, al prossimo governo? La richiesta al prossimo governo sono cose molto puntuali e molto operative, nel senso che non abbiamo ormai il grosso riassetto è fatto, c'è da fare da un lato un minimo di rinforzo della parte proprio quantitativa del finanziamento alla promozione, quindi noi vorremmo raddoppiare il piano promozionale export dedicato all'agenzia ICE, che oggi è circa un terzo di quello che era 4 anni fa. Quindi ci basterebbe portarlo come dotazione propria a circa 60 milioni, che poi sono 60 milioni che si moltiplicano mettendosi a fattor comune con quello che fanno le regioni, quello che fanno le camere di commercio, più il contributo delle aziende, 60 milioni possono diventare 200 di attività promozionale, che diventa una roba seria. E l'altra cosa molto importante, 3-4 misure già impostate o già fatte che andrebbero un po' rifinanziate, ad esempio il tema dei incentivi all'aggregazione dimensionale o all'aggregazione per esportare, quindi le reti all'export, i consorzi all'export o le aggregazioni proprio di aziende che sono state finanziate e che dovremmo rifinanziare sperabilmente negli anni prossimi, degli incentivi fiscali all'assunzione di specifici profili professionali, come ad esempio gli export manager. Quindi sono tutte cose molto semplici, molto operative, che in realtà sono convinto che saranno facilmente condivise da chiunque verrà a governare tra poco. 17:48 minuti, la borsa, dicevamo, molto forte oggi, Mediaset fortissima, più 9%, al di là della candidatura di Berlusconi, ma in realtà oggi c'è notizia che riguarda il titolo, c'è più ottimismo degli analisti per la pubblicità e quindi la raccolta pubblicitaria e anche qualche ricopertura, visto che negli ultimi giorni era un po' calato il titolo. Fiat, bene. Le dichiarazioni di Marchionne che abbiamo letto all'inizio, 17 nuovi modelli entro il 2016, confermati tutti gli stabilimenti in Europa, il 2013 dovrebbe essere identico al 2012, non in peggioramento, il pieno impiego entro 3-4 anni di tutti i lavoratori, il titolo guadagna il 6,20% oggi. Bene anche ST Microelectronics più 3,60, bene tutte le banche, visto che lo spread è di nuovo calato oggi e c'era stato qualche calo invece nelle banche ieri. UbiBanca più 3,43%, Mediobanca più 3%, Unicredit più 2,40%, Popolare Emilia Romagna più 2,12%, Generali più 2%, Monte dei Paschi più 1,80%, mi manca Intesa, eccola qua, più 1,70%. Telecom Italia come si è mossa, volete sapere? Si è mossa abbastanza bene, più 1,47%, il tema è la cessione della 7, quindi di T-Media. Perché? Perché il Consiglio di amministrazione di Telecom Italia ha deciso che verrà comunque presa una decisione entro il 7 febbraio. Ebbene, anche un titolo come Mer Tecnimont che ha chiesto 1 miliardo e 300 milioni di danni a Endesa. Cile, il miglior titolo comunque resta Meridiana dopo l'operazione dell'Aga Khan che abbiamo commentato ieri. Il mercato scommette che verrà fatta un'OPA, probabilmente più 39% anche oggi a 1,02 euro. Banca Popolare di Spoleto più 26%, D-Mail più 25%, Ciccolella più 22% e Meridie più 13%. Fronte opposto, Indesit meno 8,50% e basta. Esprinet meno 4,30%, primi sui motori meno 3,80%. Bene oggi invece tra i titoli di maggiore capitalizzazione anche ST Microelectronics più 3,60%. Mediolanum più 2,60, Fimeccanica più 2,40, Tods bene con il lusso anche oggi più 2,20%, Prismian, l'ex Pirelli Cavi più 1,80%. E adesso cambiamo tema e occupiamoci delle agenzie di rating, quelle che danno i voti ai singoli paesi, perché ieri è arrivata una decisione europea che è un tentativo, diciamo, non è che abbia soddisfatto proprio tutti, ma è un tentativo di porre un freno, di regolamentare il loro ruolo. Cosa ha deciso l'Unione Europea? Che le agenzie di rating potranno emettere tre valutazioni annuali da fornire ai mercati chiusi e in date stabilite alla fine dell'anno precedente, in modo da dare tempo anche ai governi di prepararsi. Non potranno dare prescrizioni politiche nel loro giudizio sui voti degli stati. Poi è prevista che la creazione di un'agenzia di voto europea, una roadmap che dovrebbe portare al 2016 a un piano di fattibilità. E poi le nuove norme fissano un tetto alle quote azionarie che le agenzie possono avere, cioè le azioni che le agenzie possono comprarsi di soggetti che vanno a valutare, conflitto di interesse mi sembra chiaro, al massimo il 5%. E poi dovrà astenersi l'agenzia dal pubblicare il voto nel caso un suo azionista, un suo socio, visto che spesso sono fondi di investimento americani, anche enormi, abbia più del 10% delle azioni con diritto di voto di un soggetto che uno sta analizzando. L'Europarlamento ha dovuto accettare un compromesso, la rotazione obbligatoria delle agenzie di rating ogni 4 anni, non più solo 3, e riguarderà solo le ricartolarizzazioni, e la questione della responsabilità civile molto molto ammorbidita, anche se è introdotta la possibilità per gli investitori di chiedere risarcimenti alle agenzie per voti che si rivelano infondati. Due casi su tutti: Parmalat prima che fallisse e Lehman Brothers sempre prima che fallisse. Ottimi voti delle agenzie. Professor Donato Masciandaro, buonasera. Buonasera a voi. Lei insegna, è editorialista sulle 24 ore, insegna economia della regolamentazione finanziaria all'Università Bocconi di Milano, ha scritto oggi su Sole 24 ore, insomma, la commedia di Bruxelles. Un po' deluso, cos'è? Un piccolo, modesto tentativo, e che cosa non la convince? Non mi convince niente, perché quando è sbagliata una strada, anche se ci sono dei provvedimenti marginali e parziali che possono avere un senso, se la strada è sbagliata anche quei provvedimenti non servono a nulla. La strada sbagliata è facile da dire qual è. Il problema è che oggi le nostre regole, quindi sono provvedimenti pubblici, sono basati su opinioni. Allora, questo è il problema. Lasciamo che le opinioni tornino ad essere tali, perché se continuiamo a mantenere all'interno delle nostre regole delle opinioni, tutto il resto non serve. Anzi, più continuiamo a provare ad inseguire delle opinioni ex post, a certificare delle opinioni ex post, più di fatto stiamo dando peso a quelle opinioni. E quindi, cioè, mi faccia capire, professor Masciandaro, lei vorrebbe togliere proprio il giudizio dell'agenzia di rating? Assolutamente, assolutamente. Facciamo un gioco, dottor Barisoni. Lei per mestiere ogni giorno facciamo finta che lei dia opinioni, anzi delle valutazioni sulle azioni di borsa. Quello che ha detto. Ecco, la differenza tra quello che dice di solito e una situazione in cui le sue opinioni fanno scattare automaticamente dei giudizi sulla ammissibilità in borsa, piuttosto che sulla solvibilità di una banca, piuttosto che sulla robustezza di un portafoglio azionario. Vi sembra una cosa normale? Quindi lei dice: eliminiamo il ruolo dell'agenzia di rating direttamente e non limitiamo o regoliamo il loro ruolo, ma facciamo in modo che siano opinioni tout court, ma non capaci di orientare nulla, ho capito bene? Attenzione, non sono io che dico che sono opinioni, sono le agenzie. No, sono loro, certo, quando si sono giustificate al congresso, abbiamo fatto sentire più volte quel pezzo di Inside Job, tutti i capi delle agenzie di rating dicevano: ma noi davamo solo opinioni, erano opinioni, io non ho tempo ma ve lo farei risentire, erano opinioni, lo dicono anche loro, è vero. Quindi lei dice... No, non so, è vero, ma chiedo scusa dottor Barisoni, prendiamo la fondamentale differenza tra i certificatori di bilancio e loro. I certificatori di bilancio guardano dei dati storici e formulano dei giudizi su quei dati storici. Le agenzie di rating non fanno mica quello, fanno previsioni sul futuro. In un caso abbiamo una certificazione che può essere utile ai fini pubblici, nel secondo caso abbiamo le opinioni fatte da soggetti di mercato. Allora lasciamo che il mercato giudichi queste opinioni e non introduciamolo invece nella legislazione dandogli una patente. Dottor Barisoni, quanto guadagnerebbe lei se le sue opinioni facessero scattare verso l'alto o verso il basso delle regole pubbliche nei mercati? Quindi lei dice: abbiamo usato un palliativo, adesso stiamo finendo il tempo a nostra disposizione, un palliativo, in realtà non devono essere in grado, non deve essere obbligatorio il loro giudizio per accettare la qualità di un titolo, altrimenti il loro potere resterà sempre e comunque fortissimo. Professor Masciandaro, torneremo su questo, oggi abbiamo lo speciale sull'Algeria e sugli ostaggi, io la ringrazio per la chiarezza, è netto il suo giudizio, palliativi, aspirine per un male molto minore. Da Sebastiano Barisoni l'auguro a voi in ascolto di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.